24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Nuovo appuntamento con 24 ore in Europa, ben trovati da Roberta Pellegatta. La BCE non cambia e continuerà a seguire la via dell'autonomia e dell'autorevolezza, ha assicurato Mario Draghi anticipando il suo no alla ristrutturazione del debito sovrano della Grecia. Batterio killer, sale a 25 il numero delle vittime, la Commissione europea aumenta 210 milioni di aiuti a favore dei produttori di frutta e verdura europei. La Torino-Lione si farà nei tempi previsti, categorico il ministro dell'interno italiano Roberto Maroni. Credibilità, indipendenza e pragmatismo sono questi tre principi guida a cui si atterrà Mario Draghi nell'adempiere la sua funzione di presidente della BCE e quanto scrive lo stesso Draghi rispondendo alle domande rivoltegli dal Parlamento europeo in vista dell'audizione di martedì prossimo. Non vedo motivi per introdurre cambiamenti nel modo in cui è stata condotta la politica monetaria negli ultimi 12 anni, scrive Draghi, perché la politica monetaria della BCE si è dimostrata un grande successo. L'obiettivo principale della Banca Centrale Europea, aggiunge Draghi, è preservare la stabilità dei prezzi nel medio periodo per l'intera eurozona. Nella lettera al Parlamento greco, il futuro presidente boccia poi qualsiasi ipotesi di una ristrutturazione del debito greco. È un'opzione, dice, i cui costi superano i benefici. Voltiamo pagina. Il bilancio delle vittime dell'epidemia di Escherichia coli è salito a quota 25 in Germania, lo ha comunicato il ministro della Sanità tedesco Daniel Bahr in una conferenza stampa. Intanto aumenta a 210 milioni di euro l'ammontare degli aiuti proposti dalla Commissione europea a favore dei produttori di verdura e frutta dell'UE, colpiti dagli allarmi legati alla diffusione dell'epidemia provocata dal batterio killer. Ma alle imprese ortofrutticole colpite non basta. Una protesta colorata, a tratti rumorosa. 30.000 chilogrammi di frutta e ortaggi distribuiti gratuitamente. Delusi dall'aiuto europeo, gli agricoltori spagnoli hanno scelto di difendersi da soli dalla crisi del batterio killer. Io de todas formas sé que lo he comprado, No. Sí. No nos creemos lo mismo. No nos creemos nada. Dame dos calabacines más, hombre. Lechuga y Nel centro di Madrid, dunque, lunghe code a sancire il successo dell'iniziativa, con frutta, verdura e ortaggi distribuiti gratuitamente. La Federazione Spagnola stima in 225 milioni di euro a settimana le perdite del settore, considerando che gli spagnoli sono stati le prime vittime con quella storia dei cetrioli, rivelatasi poi inesatta. È difficile prendere decisioni su due piedi quando si è nell'occhio del ciclone. Si è difeso il commissario europeo per la salute John Dalli, ma l'Europa resta sotto accusa, aiuti insufficienti, scarso coordinamento, mancanza di polso che ha pesato se il governatore Zaia ha quantificato nel solo Veneto 600.000 euro di danni al giorno per gli agricoltori, questo in Italia, dove non risultano persone infette e dove frutta e verdura sono sicure e garantite. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il progetto della Torino-Lione non subirà una battuta d'arresto, è stato categorico il ministro degli interni italiano Roberto Maroni al termine del vertice in prefettura a Torino con gli enti piemontesi e le forze dell'ordine. Maroni ha smentito che possa essere impiegato l'esercito a difesa dei cantieri della TAV. Sentiamo. Abbiamo escluso l'utilizzo dell'esercito, certo. Nelle condizioni attuali non c'è necessità di intervento dell'esercito. La priorità è che l'opera deve essere fatta nei tempi previsti. Ok, tutto quello che serve lo faremo, naturalmente senza badare a spese, cercando di contenerle il più possibile, ma non è che non facciamo una cosa che serve, non faremo una cosa che serve, non manderemo il numero di forze dell'ordine necessario perché non ci sono soldi, no? Perché questo metterebbe a rischio la realizzazione dell'opera. Dal 21 maggio scorso il movimento NoTav ha stabilito un presidio permanente per bloccare i lavori. Ma sentiamo sulla querela Umberto Bertelè, ordinario di strategia d'impresa al Politecnico di Milano e già presidente della TAV, al microfono di Sebastiano Barisoni. Sicuramente l'opera è costosa, credo che però l'Italia debba evitare assolutamente il rischio di far passare tutti i traffici fra la Spagna, la Francia del Sud, eccetera, e l'est d'Europa al di sopra delle Alpi e venga tagliata fuori completamente da questo circuito. Nella storia abbiamo moltissimi casi di aree ricche che hanno poi subito dei danni molto forti dal fatto di essere tagliate fuori dai traffici. C'è però un problema di risorse, perché i soldi europei, anche se arriveranno, sono 620 milioni, qui servono ancora 4 miliardi e passa, 4 miliardi e mezzo solo italiani. Ma io credo che i soldi europei, anche quando facemmo l'operazione dell'alta velocità, quella ferroviaria realizzata tra Napoli e Torino, ecco, io credo che anche in quel caso lì il contributo comunitario fu un contributo, direi, più simbolico come peso che non un contributo reale, ma importante perché dava l'idea che si trattava di un'opera di interesse complessivo, non solo per il paese ma anche per il sistema di comunicazione globale. Quindi io credo che in questo caso non sia tanto il problema, c'è anche quello indubbiamente, di perdere i soldi dell'Unione Europea, ma il fatto che se li perdiamo questa operazione non verrà mai più presa in considerazione. Perché dice almeno con questi 670 milioni partono e poi la figura che facciamo con l'Europa è che ci diranno vabbè a questo punto facciamo il corridoio 5 Lisbona-Kiev sopra di voi, arrivederci, voi tornate a essere un paese solo mediterraneo. In una battuta, più importante spendere i soldi per la TAV o per il ponte sullo stretto? Forse pur avendo anche avuto una simpatia per il ponte sullo stretto, direi che la TAV è un'opera strettamente necessaria. Non è un'opera simbolica. Non è un'opera simbolica, è un'opera necessaria. Sì. Borse europee in netto calo sui timori diffusi per la ripresa economica alimentati dalle dichiarazioni della vigilia del presidente della Fed Ben Bernanke su una crescita negli USA lenta in maniera disperata. Londra arretra dello 0,95%, Francoforte dello 0,61%, Parigi scende dello 0,88%. Negativa anche Piazza Affari. Giornata di passione per le banche a Piazza Affari. I titoli degli istituti di credito hanno risentito della generale incertezza sulla situazione della Grecia e dei timori sulla tenuta della ripresa economica globale. Il Banco Popolare ha perso così il 4,34%, Ubibanca il 3,28% e il Monte dei Paschi di Siena il 3,1%. La performance delle banche ha penalizzato l'intera borsa milanese, maglia nera a livello europeo. Il FTSE Share ha lasciato sul terreno l'1,46% e il FTSE MIB l'1,44%. Hanno limitato i danni invece i titoli del petrolio, sostenuti dall'avviato del greggio dopo il mancato accordo tra i paesi dell'OPEC per un aumento della produzione. L'Eni in particolare ha terminato la giornata con un meno 0,25%. Paolo Paronetto da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore. Lo sport. Domenica si torna in pista per la Formula 1 col GP del Canada, ma anche per il Moto Mondiale col Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone. In Moto GP, dopo il sesto posto, le polemiche e le contestazioni subite a Barcellona, Marco Simoncelli punta al riscatto. Dario Ricci ha intervistato il team manager di Simoncelli, l'ex campione del mondo Fausto Gresini. Andiamo in una pista nuova, una pista dove Marco è amato dal pubblico e questa è la cosa più importante. Sappiamo che andiamo in una pista dove probabilmente troveremo ancora della pioggia, delle temperature molto rigide, ma sarà così per tutti, quindi ci adatteremo a questa nuova circostanza. Tutta questa vicenda non abbia fatto altro che rafforzare Marco e anche la squadra. Adesso siamo ancora più uniti di prima e credo ancora più forti di prima. Penso che Marco ha dimostrato di essere forte, un'altra prova di forza, un altro modo anche questo, se non pur bello, di maturare e di fare esperienza. La musica in chiusura. Riscuote da anni successo in Spagna, patria della chitarra. Ora il chitarrista Roberto Fabbri ha pubblicato il suo secondo album, No Words. Lo ha intervistato Marta Cagnola. Ci sono stati, diciamo, degli apripista che sono stati pianisti, che come da Levi a Bollani a Einaudi hanno iniziato a far conoscere la musica strumentale al grande pubblico, no? E ora anche la chitarra sta iniziando a far capire che comunque la musica strumentale può trasmettere qualcosa di contemporaneo, insomma, può essere musica dei nostri tempi e scritta nel nostro tempo, insomma. E il fatto di averla portata in giro per il mondo, in effetti quando io ho iniziato a studiare chitarra mai mi sarei immaginato che avessi potuto avere tanto successo in Spagna. E praticamente i miei libri, perché ho scritto più di 30 libri di chitarra, di metodi, ma specialmente i metodi per iniziare, sono stati adottati dai conservatori spagnoli, e questa è una grande fonte di, diciamo, di orgoglio per me. E anche il fatto che, come esame tra i pezzi che si devono portare agli esami di ammissione, i conservatori in Spagna molti sono anche le mie composizioni, e questa è un'altra piccola tassello, diciamo, che è andato a segno, insomma, ecco. È tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.